זה איבית כזה cos'è dit cos'è ridere per non soffrire più lare lare di lare lare da vendicarsi senza più odiare Ibit cos'è, ibit cos'è Vivere in un mondo che non c'è Lare lare di, lare lare da Non lo prendere sul serio quello che cos'è vivere in un mondo che non c'è lare lare di lare lare da il bit cos'è